The Stini Man, Ufo Sonic Kingstop, Desolandia L'Express. Mi sento di critica introspettiva. Perché non uscire tardi, beccarsi con dei rifiuti ambulanti, col gusto di ubriacarsi come fanno tanti, o non fumare fino a svenire, coi mozziconi in terra ed una cappa in testa tipo effetto serra. Se per chi la sana incoscienza si limita a questo, sappia che c'è altro da provare dentro l'universo. Chi si stordisce di tecno, pasticche e peveroni, per la mia gente uguale a fuori dai coglioni. Entro, faccio un giro in disco, esco che non ci capisco un cazzo, perché sono stordito dal volume alto, casse, alcol, popper. Il popper chi capisce, chi gradisce una serata alternativa al triplo malto. Sali in auto, vivi al massimo alla Vasco, che rallento per farti gustare pieno il tuo sorpasso sano. No, dico scendo un sacco, poi mi aspetti all'autogrill con i tuoi amici a fare a gara chi è più fatto sano, sano, incosciente. Ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente. Ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente. Ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente, incosciente. Raccontamene tu, una in più, una in più. Hai lasciato casa per una vita all'eccesso, solo perché a casa qualcuno ti paga il conto dell'albergo. Quanti ne ho visti di coetanei non correre rischi, avere i soldi facili in tasca coi papi correntisti. E chi lavora li imita, accende leasing, per uno status da raggiungere sono i più tristi. Bere lo champagne e non lasti, e da vincenti quanto piangere maledicendo il giorno in cui mollasti. I sogni nel cassetto non li abbandoni ma li accatasti, sperando che un bel giorno il cash ti basti. E chi manca di rispetto per se stesso è all'ultimo gradino, l'incoscienza che lo salva è quella sana e l'ammiro. Io non sono un emiro o uno sceico, ma sono ricco di scelte di cui vado fiero. Libero dei vostri vincoli, convinciti che vinci quando ti giti ad essere forte dei tuoi limiti. Sano, sano, incosciente, ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente, ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente, ora raccontamene tu, una in più, una in più. Sano, sano, incosciente, incosciente, raccontamene tu, una in più, una in più. We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and